Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Router, wifi come radar, buonasera, benvenuti a Smart City. Ricercatori di numerosi laboratori del mondo stanno lavorando a questa idea già da qualche anno, ma Philip Hall e Friedman Reinhard, ricercatori del Politecnico di Monaco di Baviera in Germania, sono stati i primi a trovare il modo di produrre immagini radar dell'ambiente circostante usando un wifi commerciale come emettitore di radioonde. Partiamo da questa notizia curiosa, diciamo così, per affrontare un mondo, quello dei cosiddetti sistemi parassitici, su cui la ricerca si sta appunto esercitando, e per capire insomma il quale ci facciamo aiutare dal professor Claudio Prati, ordinario di segnali per le comunicazioni del Politecnico di Milano. Buonasera, buonasera Prati. Buonasera. Allora, senta, intanto vabbè, ricordiamo brevemente come funziona il radar, partiamo da qui. E anche da quali sono insomma le differenze fondamentali tra un radar e il wifi che abbiamo tutti a casa? Beh, il principio di funzionamento del radar è molto semplice. C'è un'antenna che emette un segnale, questo segnale raggiunge un bersaglio, questo bersaglio produce una eco che viene poi ricevuta dallo stesso trasmettitore, si misura il tempo di volo e in base al tempo di volo si stabilisce la distanza dell'oggetto del bersaglio dal radar. Poi il radar ha una certa apertura angolare e quindi anche angolarmente si capisce dove sta questo oggetto. Infatti girano tipicamente, no? I radar, se vogliono coprire l'orizzonte, devono fare una specie di scansione. Esattamente, per capire. Proprio questo. Ecco, allora veniamo a questa ricerca. Qual è la novità principale? Come funziona il sistema e qual è la novità principale? Il sistema è molto interessante, soprattutto per i risultati che sono stati ottenuti con un apparecchio commerciale. Di novità da un punto di vista scientifico non ce ne sono, perché è una tecnica ampiamente utilizzata, appunto come citava lei, dei sistemi parassitici. Cosa sono questi sistemi parassitici? Semplicemente dei sistemi che sfruttano una radiazione già esistente, emessa da qualcuno, che può essere appunto il router Wi-Fi. Questo segnale viene ripreso da un'antenna che lo misura e poi si misura anche il segnale riflesso da un bersaglio. Confrontando il segnale diretto col segnale riflesso si può misurare appunto una differenza di tempi di volo e ripetendo questa misura da tanti angoli di vista si può ricostruire il profilo dell'oggetto. Facendo delle triangolazioni, diciamo. Facendo diciamo una sorta di triangolazione, esattamente. Ecco, quindi concettualmente non c'è una grandissima differenza fra il modo in cui funzionano questi sistemi passivi e il radar. Quali sono le differenze importanti, quali sono i vantaggi di questi cosiddetti sistemi parassitici a questo punto? Il vantaggio fondamentale è che si sfrutta una sorgente che già esiste e quindi non si fa capire a qualcun altro che non è cooperativo che si sta facendo un tipo di osservazione. Oppure, altro vantaggio, il fatto che una illuminazione, tipo quella del router piuttosto che quella delle onde radio o televisive, sono presenti sempre e magari non è possibile avere una illuminazione attiva, continua. Ecco, quindi le applicazioni quali sono di questi sistemi? Ma le applicazioni principali sono applicazioni di security, di osservazione. Certo. E le altre sono applicazioni di osservazione del territorio continua. Ecco, senta, allora torniamo per un attimo a proprio ragionare su questa ricerca da cui siamo partiti, perché lì appunto questi ricercatori sono riusciti a utilizzare il segnale del Wi-Fi per ricostruire proprio delle immagini di oggetti presenti nell'ambiente. Però la parte così di rivelazione di questo segnale è molto complessa, ci sono delle antenne che addirittura sono mobili, è un sistema molto lento, eccetera, eccetera. Ma in fondo, voglio dire, è questo l'obiettivo di questi sistemi di sicurezza, scattare la fotografia del ladro? No, in realtà sarebbe un antifurto un po' troppo costoso quello che hanno costruito i nostri amici. In realtà questi sistemi sono sistemi che potrebbero funzionare, avere una loro utilità utilizzando frequenze un po' più basse di quelle di un router Wi-Fi. Perché più basse? Perché più bassa è la frequenza, più c'è penetrazione attraverso, per esempio, le pareti, e quindi diventa molto interessante utilizzare un sistema parassitico per identificare la presenza di persone all'interno di un edificio. Ma possiamo dire che non è tanto il punto di avere delle immagini dettagliate o cose di questo genere, ma per esempio avere un segnale presenza o non presenza, no? All'interno di un ambiente. C'è qualcosa che si muove oppure è tutto rimane fermo? È forse questo tipo di informazione che si punta, come dire, a ottenere da questi sistemi, o sbaglio? No, dice bene, anche perché utilizzando delle frequenze più basse, che appunto hanno questo vantaggio della penetrazione attraverso le pareti, si perde però. Si riduce in risoluzione, quindi la capacità di andare a individuare singoli oggetti, singoli piccoli oggetti all'interno di una stanza. Però il movimento lo si individua bene. Ma oggi c'è qualche applicazione esistente di queste tecnologie che già viene utilizzata? Sì, esiste qualche cosa, per esempio utilizzando le onde radio per identificare le navi in mezzo al mare. Oppure ci sono applicazioni di tipo ancora sperimentale che utilizzano il segnale GPS per trovare la conformazione di certi territori. Ah, d'accordo, va bene. Grazie professor Claudio Prati. Grazie a voi, arrivederci. Ecco, prima di lasciarci vale la pena di ricordare che queste cosiddette tecnologie parassitiche non servono solo a fare sensori che sfruttano le radiazioni presenti nell'ambiente, ma addirittura dispositivi che possono funzionare interferendo, modulando le radiazioni presenti nell'ambiente. Per esempio, immaginate di disseminare sì la casa di sensori, ma volete che questi sensori comunichino anche con una qualche unità centrale che raccoglie i dati, e che questi sensori possano non avere una batteria o qualche forma di produzione energetica a bordo, ma che possano utilizzare appunto l'energia presente nell'ambiente. E a questo proposito una notizia molto interessante è quella che è arrivata a luglio dall'Università di Washington, dove sono riusciti a creare addirittura un prototipo di telefono che consuma pochissimo e si alimenta in maniera autonoma, utilizzando anche la luce ambientale, ma soprattutto le radiazioni presenti nell'ambiente, come appunto le onde radio che sono emesse da un router, o immaginate un telefono cordless che ha una base e una cornetta che vi potete portare in giro. Immaginate che questa cornetta possa funzionare senza batterie. Finora i ricercatori sono riusciti in questo intento, purché la distanza tra questa base e questa cornetta, diciamo senza batteria, non superi i 15 metri. C'è anche un altro piccolo problema, che questo telefono funziona come un walkie talkie, per cui o parlate o ascoltate, ma non potete fare le due cose contemporaneamente. Comunque, passi avanti su questi sistemi parassitici ce ne sono molti, vi terremo aggiornati. Per intanto vi ricordo, nel caso voleste recuperare qualche puntata di Smart City che vi siete persi, che potete ricorrere al podcast che raggiungete facilmente dal sito internet di Radio 24, che potete scriverci a smartcity@radio24.it, ma mi trovate anche su Facebook. Questo è davvero tutto. Buona serata, buona continuazione qui su Radio 24.